Benvenuti ecco, alla biblioteca provinciale, saluto i coniugi Lipponi che presentano questa mattina alla stampa in questa sede gli atti del convegno sulle persone scomparse, scomparsi che fare, vite sospese e ci sarà una riflessione anche sulla legge che è stata elaborata. Perché la biblioteca si offre in un'occasione simile? La riteniamo una cornice più che idonea, in quanto le biblioteche hanno una funzione sociale e una, diciamo, sono una piazza molto democratica al servizio della comunità. E in questo senso anche la biblioteca provinciale Claudia Augusta, nonostante la piccola sede nascosta, sta cercando da anni di operare al servizio della comunità in tutte le sue più svariate sfaccettature. Siamo molto convinti e contenti di poter collaborare per qualunque causa giusta e qualunque cosa possa essere di aiuto per la società, come nel caso appunto anche delle persone scomparse, come fare, come muoversi. Se questo può essere uno strumento utile, ne siamo convinti, siamo anche contenti di poter magari proporlo a un pubblico più ampio e non solo per esperti o ai media, come in questa occasione, e si pensava appunto con i signori Lipponi anche di trovare un'occasione poi nel 2014 tutti insieme per dare più risalto a questo lavoro. Io porto i saluti anche da parte dell'assessore Tomasini e saluto anche il dirigente Pippa Francesco, che è venuto in rappresentanza del questore, il signor Ardolino Daniele, che è venuto in rappresentanza del commissario del governo, e il maresciallo Matteo Maestri, mi scusi, per i carabinieri. Vi ringrazio e vi cedo subito la parola. Allora, noi ringraziamo prima di tutto la biblioteca, se vuoi ringraziare tu magari. Sì, no, io veramente sono il mio ringraziamento di cuore per averci dato la possibilità di fare questo incontro con la stampa e anche con le autorità qui presenti. E credo che sia veramente un momento importante del percorso che si sta facendo nella ricerca degli scomparsi. Ecco, forse posso dire due parole riguardo, diciamo così, alla motivazione che sta al centro di questa pubblicazione. Non saremmo qui se non fosse scomparso nostro figlio, e quindi la scomparsa di Andrea nel 2008 ha fatto sì praticamente che noi incontrassimo, diciamo, i media con chi l'ha visto. Non avremmo mai pensato di rivolgerci a una trasmissione del genere, non la guardavamo molto volentieri, e anche l'incontro appunto con un'associazione nazionale in Italia, a quel tempo lo era nel 2008, di Penelope Italia, e questo ha fatto sì che noi diventassimo per un breve periodo un comitato regionale con familiari e amici degli scomparsi e amici, diciamo, di Andrea stesso, di nostro figlio. Ma diciamo, la ricerca di Andrea poi è diventata una ricerca simbolo, diciamo così, delle persone scomparse. Per cui, siccome successivamente nel 2009 questo comitato regionale legato a Penelope Italia si è trasformato in associazione regionale, e quindi ora, oggi, diciamo così, Penelope Trentino Alto Adige è un'associazione regionale che fa parte di una federazione nazionale che è appunto Penelope Italia. Ecco, il fatto che sia collegato appunto quindi anche ad altre regioni in cui c'è Penelope ha permesso praticamente, è un po' all'origine, diciamo, anche di questa pubblicazione. Perché proprio nel 2000, tra il 2011 e il 2012 c'è stata l'ultima, potremmo dire, segnalazione di una presenza di Andrea a Como. Ora Como si trova appunto in Lombardia c'è Penelope Lombardia. Io, come presidente di Penelope Trentino Alto Adige, immediatamente la segnalazione è venuta tramite Facebook, perché su Facebook c'è l'account Andrea Lipponi per la sua ricerca, ma c'è anche Penelope Südtirol che è, diciamo, riguarda tutti gli scomparsi. Ecco, mi sono rivolta al presidente della Lombardia, di Penelope Lombardia, Gabriele Chiavini e immediatamente, diciamo così, è scattata la ricerca di Andrea, anche dopo 5 anni, e in quanto Penelope Lombardia aveva fatto un accordo locale con, attraverso il progetto Missing, con la protezione civile di Cinisello Balsamo. E in questo modo praticamente ricordo che andai io stessa, diciamo in quel momento da solo perché mio marito appunto era malato, andai a Como e lì incontrai appunto il presidente dell'associazione di volontari della protezione civile di Cinisello Balsamo, la signora Acquachiara, il quale aveva già predisposto la presenza, diciamo così, di un certo numero di volontari per la ricerca di Andrea in quel contesto. Eravamo appunto agli inizi del gennaio del 2012. E quindi diciamo che questa ricerca fatta nell'immediato, che è durata quel giorno, ma poi si è ripetuta in giorni successivi anche con la presenza poi del papà di Andrea, ci ha dato l'idea anche dell'importanza, diciamo, della nostra associazione, perché c'è stata questa solidarietà tra due associazioni, insomma. E non ha dato frutti, nel senso che purtroppo Andrea non è stato trovato e questa ed è stata anche l'ultima volta, diciamo, che abbiamo avuto una segnalazione di una presenza fisica, diciamo, di Andrea. La cosa importante è comunque che la solidarietà che si attua attraverso la nostra associazione e la ricerca che è stata fatta appunto dalla protezione civile attraverso il progetto Missing, che solitamente interviene nell'immediato, e qui potrei dire, come diciamo succede anche qui a Bolzano, qui c'è il signor Winkler, presidente del Soccorso Alpino, che ha partecipato alle ricerche di Andrea nell'immediata scomparsa, diciamo così. Ecco, un'organizzazione alla loro di tipo diversa, però diciamo la pronta risposta a una segnalazione ricerca. E questa è stata una cosa che ci ha messo in contatto diretto poi col presidente della Lombardia, ci ha fatto venire voglia di organizzare un convegno che è stato fatto l'anno scorso, appunto Vite Sospese, e ha permesso appunto di mettere insieme tanti personaggi, diciamo così, che hanno contribuito alla ricerca degli scomparsi. E c'è stata appunto la nostra presidente nazionale che tanto si è adoperata, per esempio, per far sì che la proposta di legge sugli scomparsi, a cui Penelope, diciamo, ha tanto lavorato, diventasse una realtà, ed è appunto la legge 203 del novembre dell'anno scorso. La presenza del commissario straordinario Michele Penta, che tanto ha fatto attraverso le sue linee guida per l'attuazione di piani provinciali e territoriali, che sono stati attuati un po' in tutta Italia, ma che hanno avuto un'attuazione pratica anche nella nostra provincia. E poi, diciamo, il fatto appunto locale, così molto importante, di il coordinamento tra lo Stato, diciamo, e la provincia, attraverso il commissario del governo e il presidente della giunta provinciale, con una firma data a questo piano. Ecco, forse ci possiamo lamentare del fatto che Penelope in questo piano provinciale ancora non esiste, diciamo così. Però sta anche di fatto che forse altrove, dove Penelope è inclusa nei piani provinciali, magari poi non viene neanche chiamata. Quindi noi non ci siamo, ma ci siamo comunque, no? Perché i nostri contatti, il nostro desiderio, insomma, che la ricerca degli scomparsi non sia lettera morta, non sia solo sulla carta, ma sia qualcosa di vivo, sia qualcosa di sentito, a livello sia di cittadinanza, diciamo così, e quindi di tutte le persone che possono essere d'aiuto nella ricerca, ma anche molto importante a livello di istituzioni. Ecco, io direi a questo punto do la parola anche a Livio, che... Allora, avete sentito mia moglie, che è madre di Andrea e è anche la presidente dell'associazione Trentino Alto Adige. Noi quando abbiamo fatto il convegno, un po' perché forse il convegno non ha avuto poi tutta quella risonanza che noi speravamo, perché la partecipazione è stata relativamente, soprattutto per quanto riguarda la città di Bolzano e la provincia di Bolzano, è stata relativamente scarsa. Abbiamo avuto una forte presenza nel convegno anche di autorità e di rappresentanze delle autorità e delle persone che sono interessate al discorso degli scomparsi. Quindi c'era, per esempio, non so, fare un esempio, a parte dei rappresentanti anche della Protezione Civile dell'Alto Adige. Però la popolazione, diciamo, la gente comune, non era poi così folta. Però noi pensavamo e siamo convinti che questo convegno sia stato molto importante. Molto importante per le persone che erano presenti, molto importante anche perché si è affrontato per la prima volta qui a Bolzano il problema degli scomparsi, che non è un problema soltanto, ma è anche un fenomeno abbastanza diffuso e un fenomeno anche di valenza sociale abbastanza notevole. Se voi vedete nella rete della copertina e anche a pagina, cioè quando, nella pagina di documento, il primo documento che noi avevamo presentato è la sintesi del numero delle persone scomparse a dicembre dell'anno scorso, quindi dicembre del 2012, 26.000 persone. 26.000 persone sono tante, suppongo. Sono 26.000 persone che sono state censite dal 74 ad oggi. E da questo punto di vista, questa la fonte poi di questa immagine, che è una carta dell'Italia con tutte le regioni e con il numero degli scomparsi per ogni regione, la fonte di questo è la relazione semestrale che viene fatta dal commissariato del governo per le persone scomparse. Il commissario del governo per le persone scomparse è una persona molto importante, è una figura molto importante, una figura istituzionale, purtroppo straordinaria, nel senso che si tratta di un commissario che viene nominato a tempo, quindi che può essere anche di volta in volta disdetto, no? Però noi speriamo e ci teniamo che continui a sussistere, perché è una importante figura di riferimento, sia perché, come ha detto il commissario Penta nella sua relazione, se voi andate a vedere la relazione di Penta, è una relazione molto sintetica, anche perché nel caso di Penta noi abbiamo riportato direttamente la relazione che lui ci aveva mandato, la relazione scritta, quindi è una relazione sintetica e analitica insieme. E in questa relazione praticamente mette in luce quelle che sono le attività che ha fatto il commissariato dal 2007 ad oggi, perché prima del 2007 non esisteva, diciamo, una figura del genere, e questa figura è nata anche grazie a Penelope Italia. Penelope è nata nel 2002 a Potenza, su impulso in particolare di Claps, di Gildo Claps, che era fratello, no? Che è il fratello di Elisa, quella ragazza che è stata trovata nel sottotetto di una chiesa a Potenza, appunto, 17 anni dopo. Evidentemente il caso di sua sorella era un caso particolare che meritava un'attenzione maggiore di quanto non gli avessero riservato non i media, perché tutto sommato chi l'ha vista è stata abbastanza vicina alla famiglia, quanto piuttosto le istituzioni. Quando la madre di Elisa andò dal questore, il questore gli disse: ma sì, figlia è scappata, è andata via con qualcuno, cosa viene a noi chiedere a noi? Cioè, si è parlato di allontanamento volontario. Sì, cioè è un allontanamento volontario, quindi vabbè, è una ragazza di 17 anni, minorenne, però insomma è anche abbastanza grande, sa cavarsela da sola, eccetera. In realtà la ragazza era, come supponeva la madre, era stata uccisa. E il suo cadavere, guarda caso, era proprio all'interno di quella chiesa in cui era entrata il giorno stesso in cui era scomparsa. Quindi spesso succede, almeno succedeva una volta, che le scomparse venissero sottovalutate. che non ci fosse la ricerca immediata, che le denunce venissero rinviate di 24 ore e qualche volta di 48, a discrezione poi dell'ufficio di polizia che riceveva la denuncia. Adesso possiamo dire che, sia grazie all'azione del commissario straordinario, che ha proposto le linee guida e quindi i piani territoriali, sia poi con la legge 203, le denunce devono essere accolte subito, le ricerche devono essere avviate subito. E poi ci deve essere un sistema organizzato di ricerche, che sono i cosiddetti piani territoriali, ma anche il fatto che queste ricerche fanno capo nelle varie province italiane ai prefetti. Quindi è il prefetto il responsabile ultimo delle ricerche, anche se poi l'organizzazione specifica delle ricerche dipende nell'immediato da chi riceve la notizia. Quindi in provincia di Bolzano, per esempio, il discorso che è stato affrontato è stato risolto in parte con la pianificazione provinciale per favorire la ricerca delle persone scomparse, che poi è praticamente un protocollo d'intesa, no? Tra, come diceva mia moglie, tra la provincia e il commissariato del governo. L'obiettivo appunto di queste intese è soprattutto quello di coordinare tutte le forze in campo, primo, quindi mettere insieme, nella fattispecie, le forze di polizia con la protezione civile, in Alto Adige, e in particolare creare un coordinamento delle ricerche, no? Una direzione di intervento che metta insieme tutte queste forze e soprattutto un piano che scatti nel momento in cui c'è necessità di farlo, perché se le cose si improvvisano, e noi purtroppo abbiamo visto vari casi in cui le cose vengono improvvisate, potrei citare anche forse il caso Ragusa, ma potremmo citare anche più chiaramente il caso Gambirasio, no? In cui le ricerche hanno comportato un impiego notevole di persone, di volontari, che però probabilmente non erano così ben preparati e non erano così ben organizzati per cercare. Da questo punto di vista noi suggeriamo anche, ma qui è un suggerimento ovviamente, pagina 101, questo drone che abbiamo visto alla fiera dell'innovazione qui a Bolzano e che potrebbe essere un utile ausilio, per le ricerche. Ci sono tanti altri strumenti per cercare. Noi abbiamo in questo libro, in particolare con l'intervento di Winkler, che qui non lo vedo più, è andato via, con l'intervento di Winkler nel convegno che abbiamo qui riportato e con l'intervento anche di Acqua Chiara della Lombardia, abbiamo posto l'accento sul fatto che esiste anche la necessità di organizzare poi le ricerche sul campo e quindi anche di lavorare perché ci sia un sistema ben organizzato di ricerche sul campo. Possiamo dire che per quanto riguarda la situazione dell'Alto Adige è una situazione in qualche misura ottimale, però se voi andate a vedere il nostro racconto della storia di Andrea, per esempio, delle ricerche di Andrea, vedete come a un certo punto, malgrado le ricerche siano state fatte anche probabilmente bene, non so, ben organizzate, cioè il coordinatore in quel caso era proprio il signor Winkler, a un certo punto le ricerche si sono fermate, sono andate avanti 2 o 3 giorni, qualche volta vanno avanti fino al quarto giorno, poi al quarto giorno finiscono, cioè non è che se si pensa che una persona sia dispersa in montagna. E qui il caso, lo so, possiamo ricordare altri casi, per esempio il caso anche di del signor Arman, no? Che è scomparso nella zona della Marmolada. Se una persona è scomparsa anche in montagna, dove tutto sommato c'è una certa localizzazione, quindi si può anche pensare che sia nella zona, che sia da cercare in quella zona lì, eccetera, eccetera. Malgrado questo, non è detto che venga trovata, primo. Secondo, le ricerche a un certo punto si fermano, vanno avanti 2 o 3 giorni, poi basta. Però nel nostro caso c'è da dire anche che siccome ci sono state 3 segnalazioni ai carabinieri proprio nei primi 3 giorni, mentre si faceva la ricerca sulla montagna, diciamo che era demotivante un po' questo discorso, perché si cercava Andrea lì, ma si pensava anche che non potesse, si sperava anche ovviamente che non fosse anche andato via. E questo è anche il problema delle segnalazioni, quando appunto vengono, questo è successo anche per il caso, adesso non c'è qui la nostra socia Cristina Salerno, per cui appunto Angelo Caferri è stato segnalato sia sul posto della scomparsa sia anche in altre località e in più località, e quindi c'è stata una dispersione, diciamo, nell'organizzazione della ricerca, e purtroppo questo appunto è capitato anche a noi, no? Cioè, noi oggi, mentre allora si pensava 80% Andrea via di là, e speravamo tanto, e anche lo stesso maresciallo Nasta, che devo dire ci ha seguiti da allora, ma a tutt'oggi, siamo sempre in contatto con lui, allora disse 80% Andrea non è qui, lui parlava di Andrea come se fosse suo figlio, devo dire c'è stata una grande partecipazione, e oggi dice, considerando che non si hanno più notizie di Andrea, nessuna segnalazione, niente, Andrea forse è rimasto lassù, ovvio, cioè, però probabilmente ovvio che le ricerche fatte a 5 anni di distanza sono difficili da fare, e anche diciamo tutta l'organizzazione che abbiamo in Alto Adige per la ricerca di una persona scomparsa riguarda la ricerca di una persona viva comunque, e per questo i primi 3 giorni, perché poi si pensa che poi la persona comunque no, è morta, e magari si tratta di mettersi anche in pericolo per cercarla, no? Ecco, quindi il problema diciamo sorge nel momento in cui le ricerche finiscono e non viene trovata la persona. Allora in quel momento lì la situazione Penelope può essere importante, sia come punto di riferimento per le famiglie, sia come punto di riferimento delle famiglie nei confronti delle istituzioni, sia come supporto di tipo psicologico per le famiglie stesse. E come dimostra anche questo libro, può essere un supporto anche di tipo legale, nel senso che noi conosciamo quelle che sono le leggi, le norme che sono state varate, quali sono gli strumenti che sono stati utilizzati, che sono stati messi in campo, il fatto che esiste un commissario straordinario che può comunque intervenire, il fatto che la legge dà delle armi in più alle famiglie per intervenire nella ricerca delle persone, per poter chiedere il perché, per esempio a un certo punto le ricerche sono terminate, perché la legge prevede anche che ci sia la legge, anche le linee guida emesse dal commissario Penta nel 2010 prevedono che ci sia una relazione finale delle ricerche, e questa relazione finale deve essere messa anche a conoscenza delle persone che sono interessate, insomma. Quindi questo secondo noi è molto importante. Poi se noi dobbiamo fare, ovviamente i problemi che sono stati affrontati nel convegno sono anche altri, in particolare con la rappresentante dell'Abanov, la direttrice dell'Abanov, cioè Cristina Cattaneo, il problema dei cadaveri non identificati. E la Cristina Cattaneo ci ha raccontato come lei ha cominciato ad interessarsi di questo problema e quali sono i motivi per i quali si è appassionata a questo problema. Posso solo specificare una cosa rispetto a Cristina Cattaneo, che lei praticamente ha lavorato collaborando diciamo concretamente, effettivamente, con il commissario straordinario Penta. Mm-hmm. Era proprio un suo punto di riferimento. E anche col e presidente anche con l'associazione Penelope Lombardia, nella persona di Gabriele Schiavini. Mm-hmm. Sì, difatti poi l'associazione Penelope Lombardia ha organizzato qualche anno fa, adesso non ricordo bene quando, comunque nel 2009 probabilmente, ha organizzato un convegno proprio sul problema dei cadaveri non identificati, perché prima dell'intervento della Cattaneo, dell'accordo con il commissario commissario delle persone scomparse, non esisteva la scheda RISC. Scheda RISC che è stata cominciata ad essere utilizzata soltanto dal 2010 però, la scheda RISC prevede la possibilità di confrontare i dati delle persone scomparse con i dati dei cadaveri che vengono ritrovati e che senza identità, insomma, che non possono essere identificati. La Cattaneo ci ha ricordato che uno dei casi iniziali su cui si era imbattuta lei come medico legale, nonché professoressa all'Università di Milano, era il caso di una ragazza di Roma che era stata regolarmente denunciata come scomparsa e che è stata che si è suicidata a Milano, insomma, si era buttata da un palazzo di Milano. Era senza documenti per 7 mesi, mi pare, 7-8 mesi. È rimasta non identificata e soltanto una collaboratrice dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, che andava a vedere le foto degli scomparsi di chi l'ha visto, sul sito di chi l'ha visto, ha riconosciuto la persona. E allora poi i familiari di questa persona hanno detto: ma com'è possibile che in un paese civile succeda che una persona muoia, venga ritrovata dopo essere stata regolarmente denunciata come scomparsa e non venga identificata? E allora lei si è appassionata, uno di questi casi, appunto questo caso qui in particolare, l'ha fatta appassionare al problema, ha cominciato a chiedersi se in giro per l'Italia ci fossero, e per il mondo tra l'altro, ci fossero altrettanti cadaveri come a Milano. E dice: noi ne abbiamo parecchi che non riusciamo a identificare. E allora ha cominciato a chiedere ai suoi colleghi di medicina legale, degli altri medici legali: ma voi ne avete? Quanti sono? Eccetera. E ha detto che poi questo censimento è stato fatto poi dal commissario straordinario, quando appunto è riuscito, quando c'è stato appunto l'insediamento del commissario straordinario. Il primo commissario straordinario era il prefetto Monaco. Il prefetto Monaco ha organizzato appunto un censimento di questi cadaveri non identificati e scoperto che siano circa, in Italia sono circa 800 persone di cui non si sa l'identità. Allora hanno escogitato questo sistema anche confrontandosi con altre situazioni, in particolare con l'Istituto di Medicina Legale della Georgia, che tra l'altro è l'unico che io sappia o che lei sappia che fa la stessa cosa che fa il Labanoff. Il Labanoff è il laboratorio appunto di antropologia e medicina forense, insomma, dell'Università di Milano. E sono gli unici che pubblicano sul proprio sito, su un sito dedicato, le foto dei cadaveri non identificati. Ecco, a questo proposito io l'ho guardato proprio ieri, mi sono presa un po', adesso guardo un attimo com'è la situazione, ogni tanto lo guardo e ho visto per esempio che ci sono tanti quadri, cioè ci sono delle fotografie di persone che sono state, diciamo, che non sono ancora identificate, ma ho visto tante barre, chiamiamole così, su questi quadri in cui si dice identificato, cioè questo sta a significare, sì, questo qualcosa, no? Sì, ma difatti il problema, diciamo, in certo senso, uno dei problemi che abbiamo visto segnalati qui è il fatto che la banca dati che è stata creata delle persone scomparse è una branca del sistema SDI, no? Sì, il sistema SDI è un sistema della pubblica sicurezza, quindi praticamente è un sistema riservato agli agenti di pubblica sicurezza. Questo significa che chiunque, cioè le persone comuni, non possono accedere a questi dati, vi possono accedere solo gli agenti di polizia, di carabinieri, eccetera. Allora, il problema degli scomparsi invece, e qui bisogna dire che chi l'ha visto invece ha una banca dati pubblica, no? Pubblica in effetti, nel suo sito tutti gli scomparsi con le foto, con le caratteristiche, eccetera, eccetera, e da questo punto di vista appunto è l'unica banca dati pubblica che ci sia in Italia, in sostanza, degli scomparsi. Questo diciamo, il fatto che questa banca dati sia in un certo senso riservata limita anche la possibilità di identificare le persone. Invece bisogna dire che l'elenco dei cadaveri non identificati, anche su suggerimento della Cattaneo, anche perché i cadaveri non hanno privacy, e qui c'è è aperto, quindi è possibile consultarlo sul sito del Ministero dell'Interno, in particolare nella sezione che è riservata agli scomparsi sul sito del Ministero dell'Interno, quindi al commissariato per le persone scomparse. Quindi esiste comunque almeno un elenco di persone. Dal 2010 poi queste persone sono identificabili meglio, perché dal 2010 abbiamo avuto la partenza delle cosiddette schede RISC, cioè che sono schede che vengono compilate o dovrebbero essere compilate dalle forze di polizia più o meno al momento della denuncia o poco dopo, insomma, no? E invece per quanto riguarda i cadaveri dovrebbero essere compilati dai medici legali. Dopo i medici legali che effettuano l'autopsia dovrebbero compilare questa scheda, e i dati che ci sono in questa scheda possono essere comparati con i dati della scheda degli scomparsi, no? Ecco, Cristina Cattaneo dice, comunque lamenta il fatto che non sempre queste schede vengono compilate dai medici legali. Questo anche, cioè, il sistema è ancora da rodare, diciamo, no? Però sostanzialmente esiste già un sistema di questo tipo, per cui se il PM, per esempio, che affronta un'inchiesta sul ritrovamento di una persona scomparsa, indica da diciamo l'incarico al medico legale, oppure se il medico legale è già informato, grazie anche all'interessamento del commissario straordinario oppure dell'Abanov, è già interessato e sensibilizzato su questa cosa, evidentemente le cose fanno e si fanno. Del resto l'autopsia può essere una banale autopsia che ha un costo, dice lei, appunto di 250 euro, ma a ricerche più approfondite, per esempio di tipo tossicologico. E questo, appunto, allora potrebbe esserci poi un incrocio tra l'informazione di una scheda RISC antemortem, data quindi da chi conosce bene la persona, che può essere il familiare, ma anche un medico, e il ritrovamento di determinate sostanze in ciò che è rimasto di quella persona, diciamo così. L'incrocio diventa sempre più preciso. Però, siccome è un problema di costi, questo sappiamo che non, più di tanto non si fa, insomma. E comunque ci sono, come dice lei, le scomparse A e le scomparse B, cioè ci sono persone su cui si fa tantissimo, e lo vediamo anche attraverso i media, quanta pubblicità, si parla sempre di quel caso, sempre quello, e ci sono persone di cui non si dice nulla, insomma. E anche si fa, non dico nulla, ma si fa molto meno, sì, insomma. Sì, certo. Questo è importante, appunto, che esista un commissario straordinario, che esista un registro degli scomparsi, che esista quindi un sistema, diciamo, che non è legato solo ad una trasmissione televisiva o al fatto che la trasmissione televisiva ha registrato o no la scomparsa di una persona, insomma, ma che sia legato, per esempio, alle denunce che vengono fatte di persone scomparse. Ovviamente la legge prevede anche che qualora una persona dovesse rientrare, i familiari devono anche ritirare la denuncia, insomma, no? Devono anche segnalarlo alle forze dell'ordine, insomma, perché uno dei problemi che aveva riscontrato ancora Monaco quando si è insediato appunto l'ufficio del commissario e ha voluto cercare di chiarire qual era la situazione, traendo dal sistema SDI appunto della pubblica sicurezza i dati sugli scomparsi, si è trovato di fronte alla necessità poi di verificare concretamente se questi scomparsi fossero eventualmente rientrati, insomma, no? Perché magari può succedere, se poteva succedere, che questi scomparsi non si denunciasse poi il rientro. Un altro problema che aveva riscontrato era il fatto che, e questo il sistema RISC invece lo prevede, che non si sapesse la ragione della scomparsa, quindi mancando diciamo una scheda RISC mancavano anche i dati che potessero far precisare meglio quali sono le ragioni, perché affrontare il problema generale della scomparsa delle persone senza avere dei dati specifici sulle ragioni per cui una persona scompare, su che età avesse, su quali malattie potesse avere, perché evidentemente è diverso se una persona è malata di Alzheimer e quindi ha una certa età. Quindi l'età, anche l'importanza dell'età. Sì, oppure se è un bambino, insomma. In generale, secondo la Forza Tasca, che è la nostra presidente, insomma, di Telenap Italia, il problema fondamentale che affrontavano i media una volta era soprattutto quello dei bambini. Cioè la scomparsa di un bambino creava audience, creava sensazionalismo e quindi tutti si concentravano sulla scomparsa dei bambini, sui minorenni, eccetera. Adesso, diciamo anche grazie a Pelerbo, la sensibilità forse è maggiore anche nei confronti degli altri casi. Ci sono purtroppo tanti anche anziani che scompaiono magari a causa di loro patologie o anche di amnesie momentanee, insomma. Quindi la casistica è molto ampia, il fatto di identificare quali sono le cause di scomparsa può essere anche molto importante per affrontare meglio il problema, insomma. Quindi è importante anche questo. Ecco, poi comunque concludendo il discorso della Cattaneo, diciamo che la Cattaneo diceva oggi come oggi, grazie anche al fatto che esiste questo elenco dei cadaveri non identificati, che esistono delle caratteristiche che vengono definite e delineate dai medici legali, diciamo al 90% le persone che vengono ritrovate vengono anche riconosciute. Il problema però rimane, c'è sempre un 10% di persone che non vengono identificate. Perché? Perché magari sono stranieri, perché magari sono clandestini, perché magari vivono ai margini della società, perché magari sono prostitute e le altre prostitute che le conoscono non vogliono esporsi più di tanto. Allora il mettere in rete, cioè pubblicare le foto, può essere molto importante per identificare proprio queste persone qui, bisogna pensare anche a loro, cioè, anche perché poi, siccome spesso queste persone sono vittime di omicidi, è importante sapere chi siano per poter fare delle indagini corrette, insomma. Lei diceva che ogni tanto i magistrati sono resti a far pubblicare le foto di persone per le quali esiste un'indagine, no? In corso. Diceva che questo è assurdo, no? Perché è importante per il magistrato, per la polizia investigativa, è importantissimo che sapere chi siano le persone. Quindi riuscire a identificare magari una prostituta tramite le colleghe può essere molto importante, insomma, almeno si sa chi è e si può quindi poi riuscire forse meglio a identificare chi è stato a compiere il delitto, insomma. Va bene, io penso che vi abbiamo annoiato abbastanza. Comunque, io penso che questa, concludendo, insomma, pensiamo che questa piccola opera non è grandissima, però sia molto importante. Molto importante perché fa riferimento ad un fenomeno importantissimo. 26.000 persone non sono poche, sono tantissime. È vero che qui in Alto Adige poi alla fine sono un centinaio, però 100 persone sono comunque tante, non è che sono poche. E quindi affrontare il problema pensiamo che sia molto importante. Noi ci rendiamo conto anche che la sensibilizzazione sia delle autorità sia dell'opinione pubblica ha portato dei risultati. Adesso è più facile che le persone vengano ritrovate. Non si risponde più ai genitori che dicono mio figlio è scomparso, se n'è andato. Non si risponde più dicendo ma è un allontanamento volontario, suo figlio è maggiorenne, sì, allora cosa ci possiamo fare? E adesso c'è una legge che prevede che comunque la persona debba essere cercata. Soprattutto, e un'altra cosa, la legge prevede anche che e lo dice la circolare successiva dell'ultimo commissario del governo per la persona scomparsa, che è la Basilone, l'ultima circolare del gennaio del 2013, appunto, che fa il punto sulla legge proprio, dice una cosa importante. La legge propone il problema, il fenomeno della scomparsa non come un fatto personale, individuale, familiare, privato, ma come un fatto collettivo. Quindi chi può denunciare la persona scomparsa? Chiunque. Chiunque può denunciare la scomparsa di una persona. Interessa la noi, non so, io ricordo un caso specifico, sto qui a citarlo, ma è un caso specifico di una madre che io avevo conosciuto e che si preoccupava per la figlia scomparsa, una figlia che non aveva minore età, ma che era adulta, era sposata, improvvisamente sparita. E ovviamente in questi casi si pensa sempre al peggio, no? E in questo caso, per esempio, la scomparsa della persona è stata denunciata dal marito con molto ritardo, molto dopo la scomparsa stessa, almeno 10 giorni dopo, se non di più. Quindi, diciamo che invece, se nel momento in cui uno viene a sapere che una persona è scomparsa, e che questa scomparsa può comportare un rischio per la sua salute, per la sua incolumità fisica, e chiunque può, chiunque la conosca, chiunque sappia, sia a conoscenza del fatto, può fare la denuncia. Però bisogna che la gente sia informata di questo fatto. E per quello è importante la nostra missione, diciamo così, di portarla avanti, anche se ancora nostro figlio non è stato trovato, ma di farlo per tutti quelli che si possono trovare in questa situazione. Ecco, questo, avere delle conoscenze, avere le informazioni diventa veramente importante. Ecco, se volete farci delle domande, noi siamo a disposizione. Se, però non avendo ancora letto il libro, probabilmente non potete fare delle domande specifiche, però se avete qualche curiosità o qualche... Per esempio l'esame del DNA non è previsto per coloro che vengono ritrovati e per i quali non si conosce l'identità? Sì, sì, l'esame del DNA è importante, è previsto. Il problema però è che diciamo il sistema RISC prevede che ci siano delle caratteristiche che vengono fisiche, soprattutto fisiche ovviamente, che vengono inserite nella banca dati e che consentono il confronto di dati, no? Quindi nel momento in cui fosse perfezionato questo confronto e quindi ci fossero cantare una parola di match, no? di corrispondenze, cioè ci fossero delle corrispondenze particolari, allora si va a fare il DNA. Nel senso che il DNA può essere anche oppure si vanno a verificare il DNA, no? Nel senso che si può comparare il DNA dell'uno con il DNA dell'altro. Però non sempre è necessario fare il DNA, nel senso che, per esempio, per quanto riguarda un cadavere, può essere tranquillamente riconosciuto se il cadavere è in buone condizioni, anche senza il DNA, insomma. Soprattutto se c'è una corrispondenza, per esempio se c'è una radiografia dentale dello scomparso e che viene comparata con la dentatura del cadavere, l'identificazione è quasi certa, anche senza il DNA. Però se per il DNA, non dimentichiamoci che in Italia non esiste una banca dati delle impronte digitali così come una banca dati del DNA, tranne che per quelle persone che specificatamente rientrano in categoria, persone fotosegnalate da polizia e carabinieri, cadaveri che vengono rinvenuti senza identificazione e vengono ovviamente fotosegnalati. Il problema sostanziale è che però se non c'è un punto zero di partenza, quindi un'impronta digitale rilevata al quinto anno di età, al decimo anno di età, non abbiamo la possibilità di effettuare una comparazione. Sì, no, però c'è anche questo, se un genitore rispetto al figlio dovrebbe avere un DNA compatibile, cioè nel senso che si potrebbe, se non si conosce, sì, a noi hanno prelevato il DNA. Non c'è motivo, anche non avendo una banca dati, certo, sarebbe meglio, certo. In ogni caso, facendo il DNA di tutti i scomparsi, si potrebbe confrontarlo con il DNA dei parenti e vedere se per caso c'è una cosa. Ovviamente si restringerebbe con 800 cadaveri e 26.000 scomparsi una ricerca sotto insieme un po' ridotto. Sì, sì, no, il sistema appunto che hanno escogitato quelli dell'Abanoff, a parte il fatto che loro pubblicizzano con l'autorizzazione del magistrato, ovviamente pubblicizzano anche le foto dei cadaveri, ed sono gli unici in Europa che lo fanno, tra l'altro, non solo in Italia ma anche in Europa. E l'idea è quella di creare un sistema informatico che metta in collegamento i dati del cadavere con i dati degli scomparsi. Questo significa poi che una volta messe in riferimento determinati match, se si vada poi a vedere poi nello specifico se proprio è quella persona lì, insomma. Quindi si faccia anche il DNA, o si confrontino il DNA. Credo che dovremmo travalicare un po' questo limite che in Italia esiste, imposto così da questa parolona che ci hanno sulla bocca, la privacy. Dovremmo andare un po' oltre, perché la salvaguardia del cittadino dovrebbe essere il punto di partenza dello Stato, dal momento in cui nasce il cittadino fino a quando il cittadino muore. E in tema di salvaguardia credo che prelevare l'impronta digitale fin dal primo anno utile di ciascun cittadino, quello che tutti amano chiamare la schedatura, in realtà non è una schedatura, è prelevare un dato sensibile, univoco, che può servire in qualunque momento e per le ricerche e per la salvaguardia del cittadino stesso. Non ci dimentichiamo il cittadino incensurato che si trova in una posizione difficile perché viene riconosciuto magari in maniera falsa da un test che dice è stato lui a fare questo tal delitto. C'è un dato univoco che ci dà fin da subito la possibilità di scagionarlo, così come il cadavere non identificato che ha ancora il polpastrello in buone condizioni ci può dare un dato unico, come ci può dare un dato univoco. Però, Sì, d'accordo, però è sicuramente una cosa che ci può venire in aiuto. Non ci dimentichiamo di quando si tratta di risolvere problemi di così importante gravità, basta veramente pochissimo per raggiungere. Nel momento attuale credo che ci sia non so se è stata realizzata ancora la banca dati del DNA, no? Se ne parla. Secondo la legge di Prime, però è una legge che prevede, cioè la legge insomma, è ispirata all'accordo di Prime. Però intanto riguarda solo alcuni stati, cioè gli stati che hanno fatto questo accordo. E poi non lo so fino a che punto sia attualmente, comunque riguarda le persone che in qualche modo finiscono nelle mani della legge. Gli stati sono Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna, del trattato di Prüm, no? Ed è del 2009. che è un trattato appunto che prevede, il trattato di questi paesi, che prevede appunto la banca dati del DNA. Però ovviamente se la banca dati del DNA fosse estesa a tutti, probabilmente dal nostro punto di vista, cioè di ricerca delle persone scomparse, sarebbe molto utile. È chiaro che sarebbe un modo anche, per esempio, prendiamo il caso Gambirasio, tanto per citarne uno che è abbastanza famoso e che ha comportato poi una ricerca del DNA a tappeto, e in quel caso lì, se noi avessimo la banca dati del DNA, cioè tutte le persone fossero identificabili tramite il DNA, probabilmente sarebbe già stato trovato l'assassino. Questo si aggiunga, secondo me, anche un altro elemento fondamentale che potrebbe essere molto utile, ovviamente più per le ricerche che per l'identificazione degli eventuali cadaveri non identificati, l'introduzione di una politica pari a quella che esiste nel Regno Unito di controllo del territorio, con telecamere, con sistemi di sorveglianza votati esclusivamente all'utilizzo in ambito di pubblica sicurezza, con dati sensibili utilizzabili esclusivamente in ambito di attività investigativa. Questo porta ad avere la possibilità, con il territorio sottoposto a maggiore controllo, di poter identificare anche passaggi intermedi dal momento della scomparsa della persona a un eventuale suo ritrovamento. Diciamo che questo sistema è abbastanza diffuso ormai, infatti molto spesso non si è trova così efficace, sì, no, molto spesso vengono dimostrato. Però il problema è che a volte, soprattutto per quanto riguarda, almeno non so adesso, ma quando è scomparso Andrea, per esempio, sono stati verificati questi passaggi. Dopo 2 o 3 giorni poi le cancella. Perché non esiste una politica di consolidamento del dato. Il dato dovrebbe essere sempre comunque disponibile, perché ovviamente qui parliamo di una scomparsa e della ricerca della persona entro, come diceva, ahimè, i primi 4 giorni, ma questa persona potrebbe comparire dopo un anno in un punto qualunque dell'Italia. E a quel punto poi, al di là dell'aver ritrovato la persona, grazie al cielo, l'attività investigativa deve anche portare un dato in punto zero, deve dire come ha fatto questa persona a raggiungere quel luogo e perché, ovviamente. C'è qualcuno che l'ha aiutato, è stato favorito, ovviamente se si tratta di attività criminosa, oppure trattiamo di, non so, ipotesi, l'anziano che scompare, ma stabiliamo che si è trattato di circonvenzione di incapace. Quindi in quel caso dobbiamo stabilire tutta una serie di passaggi intermedi. Purtroppo in Italia non esiste, come nel Regno Unito, la politica del controllo del territorio grazie all'utilizzo della tecnologia. Siamo ancora un passo indietro sotto questo. C'è sempre ovviamente questo discorso che da un lato c'è va bene, la necessità del controllo del territorio, dall'altra parte c'è anche il discorso della riservatezza delle persone, cioè più di tanto forse non si può. La persona onesta, io trovo che non sia un'invasione della privacy. La persona onesta che esce di casa e va al bar di fronte non fa nulla di male, e nessuno andrà mai a dire alla moglie, suo marito è andato al bar di fronte, perché il dato è consolidato e a mia disposizione. E sta in una banca dati come quella che riguarda i precedenti di polizia di ciascuno di noi, come quella che riguarda le impronte digitali di tutte le persone sottoposte a fotosegnalamento per attività investigativa. È un dato consolidato a disposizione unicamente nostra. Il dirigente di polizia o l'ispettore dei carabinieri non andrà mai dal vicino di casa a dire la signora Maria Rossi è stata proprio segnalata, perché ancora in sanzioni. Sì, è vero, però noi abbiamo avuto casi anche in cui i dati sono stati utilizzati in maniera impropria. Non tutte le persone sono oneste, per carità, diciamo, quindi anche tra, non possiamo limitarci, tra le forze di polizia non sempre tutti sono oneste. Purtroppo l'onestà non si divide con un coltello. Trovo che limitare le risorse, tutti i poliziotti sono onesti e gli altri no. Comunque diciamo che c'è un problema, che è un problema appunto, difatti l'abbiamo visto anche con questa legge, perché quando la legge è stata varata al Senato prevedeva l'obbligo della denuncia, è andata alla Camera, la Presidente della Commissione della Camera ha detto no, non si può. Addirittura c'era una sanzione pecuniaria. Sì, no? Perché poi l'obbligo della denuncia significava sanzione pecuniaria nel caso che non si faccia la denuncia. Evidentemente, perché diceva se chi, il promotore di questa, che poi in realtà cosa era successo? Era successo che un senatore si era preso a cuore la legge per motivi anche suoi forse, e per farla passare l'aveva tagliata, no? Aveva tagliato tutti gli articoli e mantenuto solo l'articolo 1. E però per dare maggiore forza, diciamo, alla legge stessa, aveva messo questo obbligo della denuncia. Però quando è andato alla Camera l'ha tolto, perché hanno detto che significava che erano lo stato di polizia, insomma, no? Cioè dire siete obbligati a denunciare, no? Anche perché l'obbligo era generico, cioè non era rivolto esclusivamente ai familiari o agli stretti familiari della persona scomparsa, ma era rivolto in generale, insomma, a tutti coloro che le conoscessero, la conoscessero. Ora, c'era anche il discorso, però contrastava con la legge, no? Nel senso che la legge prevede l'obbligo della denuncia soltanto per i pubblici ufficiali, insomma, cioè, quindi non per tutti. A me viene in mente per esempio il caso che abbiamo seguito noi del signor Gruberi, che era scomparso da questa casa di riposo di San Paolo a Piano. Ecco, per esempio lì il fatto di, se non avessero, supponiamo, denunciato immediatamente la scomparsa o aspettato un certo tempo, potevano incorrere in una denuncia da parte dei familiari. E questo, e consideriamo che tante scomparse sono proprio di questo genere, sia per quanto riguarda i giovani che gli anziani, in caso, e con la presenza ovviamente di qualche patologia, no? Facendo l'esempio lì, lì le ricerche non sono partite subito, si sono un po' arrangiati i familiari, non c'è stata quindi un'indagine precisa e accurata del territorio, perché se fossero partite subito, se si fosse controllato il territorio lì intorno, forse poteva essere trovato, insomma, che era lì 500 metri dalla casa di riposo. Bisogna anche dire però che questa persona che si allontanava ogni tanto per andare verso Trento, e quindi anche il maresciallo Raff diceva che era abbastanza normale che lui ogni tanto se ne andasse e poi ritornasse. E questo credo che sia successo anche per un altro caso che noi seguiamo attualmente, che non è stato ritrovato, però è che il signor Ezeri, di cui c'è la foto qui, la foto aperta Ezeri, che anche lui appunto soffre di una patologia e che comporta l'assunzione di farmaci, per cui nel caso si appunto allontani da casa, non si sa poi come possano andare le cose, se la prende, lui dice non la prende, o quali effetti possa avere. E nel caso di questo Ezeri appunto le ricerche, a seconda di quello che dicono appunto i familiari, non sono state così soddisfacenti nell'immediato, insomma, perché poi a distanza di tempo è chiaro che una persona o è morta o è andata chissà dove, ma nell'immediato appunto non sono state fatte, ma anche lì la giustificazione, che poteva essere anche plausibile per carità, perché non sta a noi giudicarlo, che lui ogni tanto si allontanava e quindi c'era già stata alcune segnalazioni precedenti di questo allontanamento, e poi era ritornato, poi lui si era addirittura sposato con questo dei carabinieri, cioè dire, si fa presto a dire colpa di questo e colpa di questo, ma però, è molto complessa la... Però in teoria nel momento in cui si fa la denuncia della scomparsa e si teme appunto per l'incolumità di una persona, bisognerebbe far partire subito le ricerche. Ecco, diciamo che forse oggi con la legge siamo più ascoltati, no? Nel caso succeda, anche se si è verificato qualche episodio precedente. Perché si dice, se nel momento in cui viene segnalato si deve cercare ovviamente subito. Ovviamente c'è un minimo di discrezionalità sempre, no? Purtroppo però succede che abbiamo due casi già, caso Ezeri, caso anche Gruberi per esempio, due casi in cui il fatto di aspettare, perché tanto era già successo che si fosse allontanato e quindi tornerà, eccetera, queste cose qui poi comportano che venga o viene ritrovato un cadavere oppure non viene ritrovato, insomma, quindi il rischio di non ritrovarlo più. Posso chiedere una cosa? Questa legge quindi che permette a chiunque di fare la denuncia, permette anche a chiunque di attivare ricerche senza che siano richiesti permessi di qualche genere, cioè come questa pubblicizzazione tramite fotografie, articoli sul giornale. A me rimane ancora in dubbio la possibilità di attivare sistemi di ricerca tipo Chi l'ha visto, no? Senza avere, non essendo familiare ma vicino, senza avere l'autorità per farlo. È ancora così? Ma praticamente quello la legge non affronta, perché la legge riguarda le persone che vengono denunciate regolarmente, riguarda gli obblighi del poliziotto che riceve la denuncia di attivare, di fare per attivare queste ricerche, per informare poi il prefetto, per informare tramite il prefetto poi il commissario straordinario. Quindi è una legge che riguarda le istituzioni, non riguarda il singolo cittadino. È chiaro che il singolo cittadino può, nei limiti del possibile, fare quello che può, insomma, quello che deve, che pensa di poter fare. La nostra associazione è appunto a disposizione di tutti per cercare di fare qualcosa, anche nei casi in cui non ci siano delle difficoltà. Insomma. Questo, però la nostra associazione agisce in un certo senso privatamente, no? Naturalmente ha proprio rischio, perché è chiaro che se noi violiamo la legge poi rischiamo di essere a nostra volta imputati, quindi dobbiamo anche cercare di seguire le regole. Un problema comunque che rimane aperto, per esempio, è quello della, quando i familiari si ritrovano che una persona è scomparsa, eccetera. Adesso è vero che le ricerche devono partire su, però è anche vero che a volte magari non sono così immediate, eccetera. Oppure i familiari stessi, gli amici, eccetera, vogliono cercare, mandare in giro manifesti, cose di questo genere. Lo possono fare, non lo possono fare, possono insigare manifesti dappertutto, non si sa. Questo, cioè, io so che se metto un manifesto in un posto in cui non posso metterlo, rischio di avere una multa, magari anche piuttosto consistente. Quindi forse bisognerebbe anche tener conto di questo, cioè che ci sono, c'è anche la necessità, se vogliamo trovare una persona, anche di farlo sapere a tutti. Quindi anche la libertà magari di mettere dei manifesti o di metterli da qualche parte. In America so che negli Stati Uniti, per esempio, le persone scomparse vengono stampate sulle bottiglie, sulle confezioni del latte, per esempio dello yogurt. Quindi, se, cioè, tutto sommato sarebbe anche importante, interessante, che si potesse fare qualcosa di più da questo punto di vista, perché anche nell'immediato, se una persona scompare, i familiari sono preoccupati. A volte, se si sa che una persona è scomparsa in un certo posto, allora si può anche fare una ricerca anche abbastanza capillare, ma se una persona non si sa dove sia andata a finire, perché è stata segnalata, non so, prendiamo il caso di Zeri, visto che è un caso concreto, questa persona è stata vista andare al bancomat di notte, è stata vista andare in stazione, è stata portata da un taxi a San Lorenzo di Bruni, hanno trovato il cellulare a fortezza. Allora, tutti questi indizi possono far credere che si sia mosso di lì e sia andato altrove. Però io potrei anche avere il dubbio che sia stato fatto fuori a Brunico e il cellulare rubato e portato da un'altra parte. Quindi, cioè, il caso della scomparsa di una persona è, certamente se avessimo un sistema di controllo del territorio e questo sistema di controllo del territorio venisse effettivamente attivato nel momento in cui scompare una persona, sarebbe, perché noi a tempo di Andrea, per esempio, abbiamo molto sollecitato anche i carabinieri, eccetera, ad utilizzare questi sistemi, però senza esito. Abbiamo avuto delle segnalazioni, scusami, se interrompo. Abbiamo avuto delle segnalazioni rispetto alla scomparsa di Andrea alla stazione di Bolzano, alla stazione di Trento, al bar della pensilina, diciamo, sotterranea della stazione di Verona. Mm-hmm. Quando siamo andati a Boiano, in provincia di Campobasso, perché c'era stata una segnalazione da parte di un camionista, il camionista aveva visto alla stazione di Cesena la foto, una segnalazione della scomparsa di Andrea, e in base a quello appunto poi ci aveva, diciamo, diretti verso questo posto di Boiano. E lui, ricordo anche per esempio che lui diceva che questo ragazzo che lui aveva incontrato, che poi non si sa se sia vero o falso, quello che c'era, cioè un mitomane anche questo, perché poi in realtà non l'abbiamo mai incontrato, solo sentito per telefono, diceva che questo fantomatico Andrea aveva la multa per essere stato in treno, essere stato scoperto senza biglietto. E una delle possibilità che hanno queste persone che scompaiono quando vogliono andarsene, fuggire così, è proprio di stare sui treni, no? Soprattutto la notte, perché la notte è il momento critico, diciamo così, perché uno che non sa dove andare monta sul treno, almeno sta caldo. E le stazioni stesse, noi siamo andati a Roma, siamo andati, cioè nelle varie stazioni, quando siamo capitati per dire di sera, di notte, era pieno di questi geni, di queste persone senza fissa dimora. E allora dico, lì questi sono proprio i punti in cui una telecamera, una maggiore attenzione, diciamo, in queste situazioni, in questi posti, sarebbe proprio auspicabile. Sì, sì, l'importante, cioè, voglio dire, è che se ci sono questi sistemi, che questi sistemi vengono utilizzati anche per gli scomparsi e non soltanto per individuare l'omicida. Noi abbiamo visto che dopo, forse più recentemente, anche tramite trasmissioni televisive, ci sono state individuazioni di persone. Per esempio abbiamo presente il caso di Scaccia, mi pare che si chiamasse, che mi pare a Pescara, scomparso a Pescara, che era stato visto dalle telecamere, no? E quindi si poteva anche sapere da che parte fosse andato. Purtroppo poi è stato trovato morto nel mare. Bari, mi pare. Comunque era finito in mare e poi... Però in quel caso lì, per esempio, le telecamere sono state utilizzate per verificare dove finché era possibile il suo percorso. Quindi, però, devo dire, purtroppo la nostra esperienza diretta, noi abbiamo, per carità, tutta la stima possibile, abbiamo detto anche sul libro, per il Cristiano Nastro, che ha seguito le indagini per il nostro figlio, però sinceramente da questo punto di vista è stato carente, cioè nel senso che le segnalazioni non sono state verificate. Probabilmente, però, cioè, da una parte sembra in contraddizione, perché nel momento in cui c'erano le segnalazioni di persone dovevano essere fatti dei controlli, insomma, delle verifiche. Quindi noi ci eravamo lamentati anche con il commissario del governo di questo, però purtroppo... A noi è andata così, noi ci auguriamo magari che in futuro... Però una volta, sì, cioè, purtroppo le inserzioni non sono... Conosco bene, c'era Chiara, perché ho lavorato 4 anni a Cinisello Balsamo, Cinisello ha un ottimo sistema di vigilanza del territorio con le poche telecamere, però ad esempio tutta la Piazza Libertà è vigilata, mi pare, da 4 o 5 telecamere in più angoli. Mi è capitato più di una volta di andare dai colleghi della polizia locale, sedermi a tavolino con il sistema davanti agli occhi e visionare minuti, mezz'ore, ore di filmati ed individuare il dato che serviva, anche in tema di persone scomparse, ovviamente qualcuno per Cinisello, qualcuno per scomparse che venivano segnalati da altri luoghi in Italia. Però è un dato, io parlo ovviamente per esperienza, per necessità vissuta e problema soddisfatto. Il controllo del territorio con un sistema di sorveglianza è fondamentale, è assolutamente fondamentale per tutte le esigenze di salvaguardia del cittadino, sia in tema di giustizia che di pubblica sicurezza che in caso di scomparso. Non possiamo affidarci alle telecamere che vengono poste, posizionate su bancomat o su altre proprietà private, che hanno proprio per legge un'unica finalità, quella di salvaguardare la proprietà privata. Spesso ci troviamo con un'immagine che per più di tre quarti è occupata dalla proprietà privata, per un angolino ci dà la possibilità di vedere la maniglia di una vettura che passa. Sì, tra l'altro sarebbe una cosa impropria, no? Perché loro non sarebbero autorizzati a riprendere però, le persone che passano sì, per strada. Esatto, però il discorso è che se viene installata con determinati canoni e accidentalmente, occasionalmente fissa su un'immagine, su un fotogramma, una persona che passa, la legge dice, se ovviamente la porzione maggiore dell'immagine è viene utilizzata per la salvaguardia del bene, cioè, occasionalmente non succede nulla. Però il dato è, occasionalmente noi andiamo a verificare una piccola porzione del fotogramma che forse ci dà la possibilità di... Sì, sì. Questo ci fa perdere del tempo spesso. Mm. Sia in tema di in ambito di polizia giudiziaria che per la ricerca dello scomparso. Se avessimo qualcosa che ci dà davvero la possibilità di individuare un dato utile, un dato su cui si può davvero lavorare, questo ci favorirebbe moltissimo. L'esempio, come giustamente diceva il signor Lipponi, del ragazzo scaccia, l'hanno trovato, ahimè, morto però è stato delineato un percorso che ha portato poi la polizia giudiziaria ad individuare un dato su cui poter lavorare. Questo secondo me non si sa ancora come mai sia finito in mare. Purtroppo ci sono tante amministrazioni comunali, al di là della pubblica sicurezza, lì purtroppo entrano in gioco anche dei movimenti e dei passaggi che sono abbastanza macchinosi, ma le stesse amministrazioni comunali spesso sono restie, vediamo qui a Bozzano, spesso restie nell'installazione di telecamere che possono dare. Comporta anche dei costi. Io da cittadino dico, d'accordo, da cittadino, quando marciamo dei carabinieri, operatori di polizia giudiziaria, dico, da cittadino sarei molto più contento se uscendo da casa mia, sopra la mia testa, ci fosse una telecamera che mi guarda. Bene, io sto uscendo di casa e vado dal panettiere. No, se cado per terra perché c'è un buco nell'asfalto, non ho bisogno di trovare 100 testimoni, di mettere per iscritto su un foglio di carta timbrato e firmato che c'era un buco nell'asfalto che non era lì da 3 minuti, ma era lì da 10 giorni e poi subentra il cavillo. Io so che c'è un occhio che mi guarda, dico, c'è una testimonianza, una e univoca, la telecamera. Questo salvaguarda me, a chiunque, era una stupidaggine di questo tipo, ma sì, sì. No, devo dire, per quanto riguarda il nostro figlio, siccome era stato segnalato davanti alla stazione di Bozzano, purtroppo in quel periodo la stazione era in fase di ristrutturazione e le telecamere erano abbastanza scarse, messe male, eccetera. Per cui, diciamo, quando io sono andato a vedere, parte il fatto che quando mi è venuto in mente di andare a vedere cosa avevano registrato, era ormai tardi, avevano cancellato già, ma comunque insomma la visione non era così perfetta, no? Le telecamere non avevano questa precisione, diciamo. ce n'era solo una che riprendeva bene le persone perché era proprio davanti alle edicole dei giornali, ecco. Se uno si fermava lì davanti, ecco, lì era possibile identificarlo. Però devo dire la verità che, insomma, mi dispiace di dirlo perché tutto sommato abbiamo una certa amicizia con ormai consolidata con il maresciallo Nasta, però lui in qualche modo è giustificato, perché allora non c'era una legge, allora non c'erano tutte queste preoccupazioni per le scomparse delle persone, eccetera. E poi c'era anche una polizia ferroviaria che diceva, ma qui tutto sommato non funziona il sistema, funziona poco, funziona male, così via. Per cui in certo senso era anche giustificato, però insomma non ho notato nessuna verifica, la verifica l'ho fatta io, insomma, quindi vabbè, ormai purtroppo niente, ciao. Però secondo me, appunto, sarebbe importante almeno che le telecamere funzionassero almeno in posti dove di grande passaggio come le stazioni, e che fossero telecamere di buona qualità, perché registrassero e che mi si è salvato il documento. Purtroppo le risorse che abbiamo, che ha la polizia, che ha lo Stato in generale, oggi come oggi sono scarse. Diciamo mal impiegate. E vabbè, che forse è più centrato. Questo non me l'aspettavo, lei una critica così. Interessante. come precisavo prima, io, ma come tutti i colleghi, siamo anche cittadini, quindi ovviamente non lavoriamo nell'ombra, ci facciamo anche la nostra opinione, facciamo anche un'analisi dell'andamento del nostro paese, ci teniamo ci teniamo forse un po' più del cittadino cosiddetto normale, perché noi viviamo anche tutta una serie di aspetti più delicati. Si potrebbero impiegare meglio, diciamo, le risorse attorno a vabbè, questo è sempre possibile, no? Migliore personale, non... siamo sempre votati al miglioramento, certo. Alla crescita. Bene, noi vi ringraziamo molto, se qualcuno non ha ricevuto il libro possiamo anche darglielo, ancora, poi lasciamo una copia, non so, volete un paio di copie magari qui? Sì, volentieri, grazie. Sì. Così se c'è qualcuno che è interessato possiamo anche dire che può trovare qui la biblioteca Claudio Busta. E, come dicevo, per noi è un punto di riferimento, secondo noi, abbastanza importante, perché qui ci sono anche le novità per quanto riguarda appunto le ultime disposizioni sulla ricerca degli scomparsi. Poi è ovvio che ogni caso ha le sue, stavo per dire patologie, però insomma le sue situazioni particolari, per cui le sue particolarità, no? Per cui effettivamente fare di tutto un erbo un fascio è impossibile. E le scomparse delle persone sono scomparse individuali, certo. Anche se poi la dimensione del fenomeno e le sue ricadute sul piano sociale sono anche notevoli, perché che una persona ci sia o che una persona non ci sia non è la stessa cosa per la società, che una persona sia da cercare per la famiglia stessa. O per la famiglia, noi abbiamo citato il caso magari di persone che hanno perso il lavoro perché andavano a cercare il figlio che era scomparso, e quindi c'è anche una situazione di difficoltà di tipo economico qualche volta. Se una persona scompare che ha una posizione di rilievo nella società o che comunque ha delle responsabilità di tipo anche economico nei confronti della propria famiglia ma anche nei confronti della società stessa, diventa un problema risolvere tutti questi problemi, insomma. Quindi ci vuole l'avvocato, ci vuole il consiglio di un commercialista, queste cose costano qualche volta, no? Anche molto. Quindi oltre ad avere il problema della scomparsa della persona, si ha poi il problema di dover affrontare tutte le conseguenze legali, economiche, eccetera, che comporta la scomparsa, e quindi a dover anche trovare le risorse, i mezzi per queste cose qui, perché poi la scomparsa dal punto di vista, per esempio, dal punto di vista della giustizia civile, insomma del codice civile, la scomparsa è sì configurata, però configurata in un certo modo, ma cioè dopo 5 anni si può dichiarare la scomparsa di una persona e quindi prendere i primi provvedimenti di tipo economico e di tipo giuridico. E dopo 10 anni si può dichiarare la morte presunta, però il problema per una famiglia che ha magari come punto di riferimento o come sostentamento soltanto quella persona lì, che quella persona scompaia, significa magari trovarsi senza soldi, senza disponibilità economica, eccetera. Quindi, e allora bisogna rivolgersi al tribunale perché il tribunale autorizzi magari di fare determinate cose, di fare delle operazioni, eccetera, eccetera. Ci vuole l'avvocato, ci vuole chi ti consiglia le operazioni da fare, così via, quindi ci vuole il commercialista. Non è una cosa semplice, insomma, la scomparsa di una persona. Comporta grossi problemi anche per le persone, per gli individui, ma anche per le famiglie, anche per la società, insomma, nel suo insieme. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie, impegno. Grazie per la partecipazione e la collaborazione. Speriamo che questo libro serva come punto di riferimento anche per voi, eventualmente. Tra l'altro noi vorremmo fare anche una presentazione alle forze dell'ordine, perché probabilmente può essere che le forze dell'ordine siano già super informate su queste cose, però poi insomma non si sa mai, avere comunque uno strumento di sempre qualcosa in più è sempre meglio che qualcosa in più. È meglio che non averlo, insomma. Bene, grazie.